Il falcone e il cappone da favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi agosto 2007 Roma. Amici, andiamo adagio a credere alla voce del malvagio, ma facciam come l'asin di Giampietro che più lo spinge e più si tira indietro. Un grasso cittadin di Monticello che faceva il mestiere di cappone al tribunale un dì venne citato del suo padrone. Qui, gridavagli la gente, spingendolo bel bello, ma il brianzol, maestro in furberia, scappava via e lasciava gridare inutilmente. «Servo vostro», diceva, «ma non mi si piglia in queste grosse trappole, no, no, nessun si meraviglia se non hanno i capponi confidenza con gli uomini. È l'istinto, ben si sa, ed è l'esperienza che diffidarli fa». Il nostro brianzol indovinò che doveva al diman essere la gloria del banchetto e d'aver ne faceva senza. Mentre fuggia, sentì che da un palchetto gli diceva un falcone ammaestrato: «O sciocco, ed hai sì corto l'intelletto che non intendi che si perde il fiato a chiamarti? E v'è gente più citrulla di questa razza d'uccellacci stupidi che non capisce nulla? Io sì, riguarda qui, cacciar volare io so, partir, tornar io sì, e dovunque si vuol rapido vo. Il tuo padrone ascolta, che ti attende sull'uscio, anima stolta». «Attenda finché vuol», disse il cappone, «conosco già la bella novità che da contare gli ha. Da lui, poco lontano, caro quell'uomo col coltello in mano, a questo dolce e amabile zimbello vola, mio dotto uccello, se ti piace. Per me scappo, e ti chiedo in carità, non ridere se alle voci gentili ancor non credo che mi faran stridere. Se vedessi anche tu, cotti allo spiedo, tanti falconi, quanti io vedo capponi o appesi al muro, non rideresti, amico, di sicuro». Fine della favola Il falcone e il cappone. Questa registrazione è di dominio pubblico.